Versetto 13. Gli furono presentati dei fanciulli, eccetera. Le turbe avevano veduto che col toccare delle sue mani Gesù salvava i malati, cacciava i demoni, eccetera. Desideravano perciò che a lui si avvicinassero i loro fanciulli, affinché fosse da essi tenuto lontano ogni male. Versetto 14. Di questi tali è il regno dei cieli, di questi fanciulli che a me sono presentati e ricevono la mia benedizione. Gesù però dicendo di questi fanciulli vuole indicare che egli non intende solo parlare di coloro che sono fanciulli per età, ma ancora degli adulti, che sono simili ai fanciulli nella semplicità e nel candore e nell'innocenza dei costumi. Da questo luogo si conferma la pratica della Chiesa di battezzare i bambini.